Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, questo è il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, appuntamento numero 273 e come sempre facciamo la domenica sera, un appuntamento dedicato alle sonorità jazz. E vorrei subito presentarvi due recentissime produzioni che hanno come protagonisti due sassofonisti di riferimento per le nuove generazioni. Due sassofonisti che però si rifanno alla lezione appresa dai grandi maestri del passato, quindi con sonorità che sono a cavallo fra il bebop e l'hard bop, e vorrei presentarvi subito il nonetto guidato da questo meraviglioso sassofonista tenore polistrumentista chiamato Luca Spino. Questo ragazzo, nato e cresciuto a Phoenix in Arizona, ha studiato con Dave Brubeck per poi spostarsi, come fanno tutti, a New York, dove si è preso i suoi diplomi alla New School e alla Juilliard, e quindi poi ha incontrato Benny Golson, Curtis Fuller, ma anche Christian McBride. Fatto sta che ormai da un po' di tempo guida questa formazione composta da 9 elementi, quindi con tanto di sax baritono, sax contralto, trombone, chitarra e sezione ritmica, naturalmente anche la tromba, per dar vita a un suono molto caldo che ci riporta indietro nel tempo, per quanto poi Luca Spino esegua solo ed esclusivamente composizioni originali. Il brano ci riporta più che altro a sonorità West Coast, quindi il periodo post bebop, quello con Jerry Mulligan e Chet Baker, tanto per intenderci. Il brano si intitola On the Road, album molto carino, molto swing, il nonetto di Luca Spino da questo album che poi si chiama anche Nonet, senza rete. Il suono del nonetto guidato dal sassofonista tenore Luca Spino qui al Soundcheck di Radio 24, e da On the Road di Luca Spino passiamo a un'altra composizione originale scritta da un altro talento del sassofono contemporaneo, un ragazzone chiamato John Irabagon. Un ragazzo, John Irabagon, con una storia molto romantica alle spalle, perlomeno quella dei genitori filippini che da Manila si spostano a Chicago per cercare lavoro. Papà elettricista, la mamma chimico che viene assunta in una società farmaceutica lì nell'Illinois, e qualche anno dopo nasce John Irabagon, che si avvicina alla musica come pianista per colpa di un parente, e poi il direttore della scuola che frequentava gli consiglia di iniziare a studiare il sassofono perché quello era lo strumento che serviva in quel momento alla band della scuola. Fatto sta che John Irabagon in pochi anni diventa un vero prodigio, ascoltando Sonny Stitt, Bal Adderley, ma anche le orchestre di Count Basie e Duke Ellington, e oggi è considerato uno dei migliori sassofonisti della nuova generazione jazz. John Irabagon con il suo quartetto realizza questo album intitolato Behind the Sky, con la partecipazione in alcuni brani del trombettista Tom Harrell. Qui lo ascoltiamo in una sua composizione, One Wish, corposa nella struttura, 7 minuti e 26 secondi, ne ascolteremo alcuni, ma basteranno per capire chi è John Irabagon qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E qui il producer discografico, disc jockey, rapper, ma anche docente della classe di pop production alla Berklee College of Music di Boston, Rader Ellis, rivisita una composizione del pianista Raymond Angry. Sì, non molto conosciuto fra gli appassionati di jazz, perché più che altro Raymond Angry è un produttore, pianista, tastierista che ha collaborato al successo di produzioni discografiche di Christina Aguilera, Joss Stone, Robbie Williams. È stato in tournée con D'Angelo, ha anche vinto un Grammy Award con i Roots per l'album Undone, e poi direttore musicale di Off the Wall, il famoso tributo a Michael Jackson. Ecco, questo Ray Angry che invece si lascia andare alla sua passione per il jazz, ricordando pianisticamente McQuay Tyner, il famoso pianista del quartetto di John Coltrane, in questo album intitolato Supreme Sonacy, che vi abbiamo già presentato qui al Soundcheck, album che vede la collaborazione della Blue Note Records con Revive Music, che ha messo a disposizione i suoi musicisti per un album da non perdere se volete stare al passo con i tempi. The Council of Goldfinger, sì, questo è il nickname di Ray Angry, Celebration of Life Suit Awakening, un titolo complicatissimo per questa sua composizione, presente, lo ripeto, in Supreme Sonacy, qui al Soundcheck di Radio 24, Ray Angry. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E questo era Yaron Herman, pianista di origini israeliane, nato a Tel Aviv nel 1981, nuovo album per lui dal titolo Everyday. Yaron Herman si è avvicinato al pianoforte abbastanza tardi, poi a 19 anni, come fanno tutti, anche in questa puntata l'abbiamo detto più volte, anche lui si sposta al Berklee College of Music di Boston, praticamente si ritrovano tutti lì. Fatto sta che Yaron Herman non si diploma in pianoforte, ma si sposta presto da Boston a Parigi, città che gli è congeniale e dove oggi risiede e sta facendo la sua carriera. Quindi questo ragazzo israeliano trova la America a Parigi. E chiudiamo il soundcheck di questa sera con il suono del meraviglioso Terence Blanchard, eccellente musicista di jazz, formidabile, autore di colonne sonore, ha scritto la colonna sonora per esempio di film importanti per registi del calibro di Spike Lee. Terence Blanchard con la nuova band, il nuovo sound, affronta un album dal titolo Breathless, dal quale vi propongo See Me As I Am per chiudere in bellezza questo appuntamento del Soundcheck. Ci risentiamo sabato prossimo alle 19:15 con la prova del suono, quindi a tutti voi buonasera, buona settimana, buona musica da Gigi Telesforo.